Storie italiane. Il principe fedele. Molto tempo fa visse un re che aveva un unico figlio, conosciuto in tutto il paese per il suo fascino e la sua bellezza. Il principe un giorno andò a caccia. All'improvviso, da un boschetto, saltò fuori un cervo d'oro. Il principe, stupefatto, ordinò di formare un cerchio. Ma allora? Lasciami andare. Con loro grande sorpresa, sentirono il cervo parlare. Ti darò innumerevoli ricchezze. Ho già molte ricchezze, ma non possiedo un cervo d'oro. Allora ti darò più delle ricchezze. E cosa potrebbe essere? Ti permetterò di cavalcarmi e ti farò vedere cose che nessun altro ha mai visto prima. Ottimo! Il cervo scintillante si alzò. Per 7 giorni e 7 notti portò il principe in giro per il mondo. La sera del 7° giorno toccarono di nuovo terra e il cervo svanì all'istante. Il principe Baramgor si sfregò gli occhi per lo stupore. Non era mai stato in un paese così strano prima. Come sei arrivato qui? E cosa stai cercando, figlio mio? Ho cavalcato un cervo d'oro. Mi ha lasciato qui in questo strano paese e poi è svanito. Sei a Demonopoli? Io sono il demone Jazdrul. Hai salvato la mia vita quando ero sulla terra sotto forma di cervo d'oro. Sei tu? Vieni con me, figlio mio. Il demone Jazdrul portò il principe a casa sua. Il vecchio Jazdrul gli diede 100 chiavi. Per cosa sono questi? Queste sono le chiavi dei miei numerosi palazzi e giardini. Divertiti! E da qualche parte forse troverai un tesoro degno di essere custodito. Così ogni giorno il principe Baramgor aprì un nuovo palazzo e un nuovo giardino. Ancora e ancora trovò ricchezze inimmaginabili. Quando raggiunse il 100° palazzo, trovò un tugurio pieno di serpenti velenosi e insetti. Ma il giardino in cui si trovava era di gran lunga il più magnifico di tutti i giardini. Il principe incantato vagò per 7 miglia da una parte e 7 miglia da un'altra. Mentre dormiva, la fata principessa Shahrazad, sotto forma di piccione, volò per caso in quel giardino. Scorgendo lo splendido giovane principe, la fata atterrò a terra con stupore vedendo uno spettacolo così incantevole. Non appena si incontrarono, si innamorarono disperatamente. E così decisero di sposarsi senza indugio. Tuttavia, il principe pensò che avrebbe dovuto consultare il demone Jazdrul, dato che questa era la sua terra. Ho trovato una principessa da sposare. Meraviglioso! Per la gioia del giovane, il demone apparve molto compiaciuto. Il principe Baramgor e la fata principessa Shahrazad si sposarono e vissero così felici e contenti. Ma il pensiero della casa che aveva lasciato tornò alla mente del principe e cominciò a pensare con nostalgia a suo padre e a sua madre. «Cosa ti turba, mio principe?» Iniziò a parlare di loro alla principessa, sua moglie. Poi iniziò a singhiozzare e singhiozzare, rifiutò la cena, finché divenne pallido e magro. «Devi mangiare, stai scomparendo!» «Ah, non mi interessa, voglio andare a casa!» Il demone Jazdrul era solito sedersi ogni notte in una piccola stanza sotto quella del principe e della principessa, per ascoltarli, per assicurarsi che fossero felici. chiese al principe Baramgor come mai sospirasse così e perché fosse diventato così pallido. Oh, buon demone! L'affabile principe avrebbe preferito morire di dolore piuttosto che essere maleducato nei confronti del demone e dirgli che desiderava ardentemente andarsene. Fammi vedere mio padre e mia madre. Lascia andare me e la principessa, altrimenti morirò. All'inizio il demone rifiutò, ma alla fine ebbe pietà del principe. Così sia, tuttavia presto desidererai molto tornare qui a Demonopoli. Il tuo mondo è cambiato da quando lo hai lasciato e avrai dei problemi. Porta questa ciocca di capelli con te quando avrai bisogno del mio aiuto. Bruciala e io verrò immediatamente in tuo aiuto. Mi dispiace, non ho niente. Oh cielo, non posso credere che sia tu. Oh mio principe, dove sei stato? Sono stato portato in una strana terra dove ho incontrato questa bellissima principessa. Cos'è successo alla mia città? Dove sono mio padre e mia madre? Mi dispiace, principe. Se ne sono andati. No, questo non può essere vero. Mi dispiace molto. In effetti, suo padre e sua madre erano entrambe morti. Un usurpatore aveva conquistato il trono e messo una taglia sulla testa del principe Baragmor se mai fosse tornato. Il cacciatore accettò di lasciare la giovane coppia a vivere nella soffitta della sua casa. La mia vecchia madre è cieca, non mi vedrà mai andare e venire. E puoi aiutarmi a cacciare, come io ero solito aiutare te. Così si nascosero nella casa del cacciatore. Un bel giorno, quando il principe era uscito per andare a caccia, la principessa Shapasand colse l'occasione per lavare i suoi bei capelli dorati. I suoi lunghi capelli pendevano intorno al suo collo e giù fino alle sue caviglie come una pioggia di sole e, una volta lavati e asciugati, aprì la finestra per far sì che la fresca brezza mattutina potesse asciugarli. Proprio in quel momento passò il capo della polizia della città. Vide la bella principessa con i suoi scintillanti capelli dorati. Rimase così sopraffatto a quella vista che cadde da cavallo dentro una pozzanghera. Il capo della polizia non la smise di parlare di questa bellissima fata dai capelli dorati che viveva nella casa del cacciatore. Questa storia giunse alle orecchie del re, che inviò dei soldati alla casa del cacciatore. Ma essendo lei cieca, non aveva idea di cosa stessero parlando. Nessuno vive qui, nessuna bella signora e nessuna brutta, solo io e mio figlio. Andate in soffitta a cercare voi stessi, se volete. Usando un coltello, la principessa fece un buco nel tetto di legno. Poi, assumendo la forma di un piccione, volò fuori, così che quando i soldati irruppero non trovarono nessuno. La principessa, molto addolorata per aver lasciato il suo bellissimo principe, mentre volava vicino alla vecchia cieca, le sussurrò all'orecchio. Andrò a casa di mio padre nella montagna di Smeraldo. Grande fu il suo dolore nel trovare la soffitta vuota. E la vecchia signora cieca non poté dirgli molto di quello che era successo, a parte della misteriosa voce che aveva udito. Andrò a casa di mio padre nella montagna Smeraldo? Questo è ciò che ho sentito. All'inizio fu un po' confortato. Ma quando si rese conto di non avere la più pallida idea di dove fosse la montagna di Smeraldo, divenne molto triste. Si rifiutò di mangiare e pianse ogni giorno per la sua principessa. Alla fine si ricordò dei capelli magici e li gettò nel fuoco. Avevano appena cominciato a bruciare quando... Mio principe, cosa posso fare per te? Mostrami la strada per la montagna di Smeraldo. Non la raggiungerai mai vivo. Segui il mio consiglio. Dimentica tutto ciò che è passato e inizia una nuova vita. Ho solo una vita e la perderò se perderò la principessa. Quindi lasciami morire cercando lei. Colpito dal giovane principe, Jazrul promise di aiutarlo il più possibile. Tornati a Demonopoli, gli diede una bacchetta magica e lo portò alla casa del demone Nanak Chand. Incontrerai molti pericoli, ma tieni la bacchetta magica in mano giorno e notte e nulla ti succederà. Questo è tutto ciò che posso fare per te. Ma Nanak Chand, il mio fratello maggiore, può aiutarti di più. Tenne la bacchetta magica in mano giorno e notte e nulla gli accadde. Alla fine arrivò alla casa del demone Nanak Chand. Il demone si era appena risvegliato da un sonno di 12 anni, quindi era disperatamente affamato e non appena vide il principe gli venne l'acquolina. Come posso aiutarti? Quando il demone Nanak Chand ebbe sentito tutta la storia, scosse la testa. Non raggiungerai mai la montagna di Smeraldo, figlio mio. Segui il mio consiglio. Dimentica tutto ciò che è passato e inizia una nuova vita. Ho solo una vita e la perderò se perderò la principessa. Quindi lasciami morire cercando lei. Questa risposta colpì Nanak Chand. Così diede al fedele principe una scatola di polvere di potassio e gli ordinò di viaggiare attraverso Demonopoli fino alla casa del grande demone Safed. Safed è il mio fratello maggiore. Se c'è qualcuno che può fare qualcosa per te, è lui. Se avrai bisogno, strofina questa polvere sui tuoi occhi e qualunque cosa tu voglia che si avvicini, si avvicinerà. Ma qualunque cosa tu voglia che si allontani, si allontanerà. Quando il principe mostrò al demone la bacchetta e la polvere e gli raccontò l'intera storia, Safed scosse la testa. Non raggiungerai mai la montagna di Smeraldo, figlio mio. Segui il mio consiglio. Dimentica tutto ciò che è passato. Inizia una nuova vita. Ho solo una vita e la perderò se perderò la principessa. Quindi lasciami morire cercando lei. Sei molto coraggioso. Cercherò di fare del mio meglio per te. Prendi questo berretto. Ogni volta che lo indosserai diventerai invisibile. Viaggia verso nord. E dopo un po', in lontananza, vedrai la montagna di Smeraldo. A quel punto, mettiti la polvere sugli occhi. Desidera che la montagna si avvicini a te. È una collina incantata. E più salirai, più questa crescerà. Sulla cima si trova la città di Smeraldo. Entra segretamente utilizzando il tuo berretto invisibile. Tuttavia, non riuscì a trovarla. Il padre della principessa Shapasand l'aveva rinchiusa all'interno di 7 prigioni per paura che lei volasse via di nuovo. Essendo suo padre, era preoccupato che sarebbe fuggita di nuovo sulla terra dal suo bel giovane principe. Se tuo marito viene da te, allora tutto andrà bene, ma tu non tornerai mai più da lui. Così la povera principessa pianse tutto il giorno. In che modo l'uomo mortale avrebbe mai potuto raggiungere la montagna di Smeraldo? Non appena la vide, riuscì a malapena a trattenersi dall'abbracciarla, ma, ricordandosi di essere invisibile, attese che il servo se ne fosse andato, chiudendo tutte e 7 le prigioni una dopo l'altra. La principessa pensò di star sognando, ma quando tutti furono spariti, fu certa che qualcuno fosse nella stanza con lei. «Chi sta mangiando nel mio piatto?» «Mio dolce principe!» Il giorno seguente la serva fu stupita quando trovò il giovane principe seduto accanto alla sua principessa. Il re, ascoltando tutta la storia, fu molto contento del coraggio dimostrato dal principe Baramgor e ordinò la liberazione della principessa. «Suo marito ha trovato la sua strada verso di lei!» Il re nominò il principe come suo erede. Il fedele principe Baramgor e la sua bellissima sposa vissero felici e contenti nel regno di Smeraldo.